avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme. Sabato notte era una meravigliosa serata di primavera. Un caldo fantastico, si stava benissimo, anzi sembrava quasi che stesse arrivando l'estate. Domenica è iniziato il temporale. La notte che abbiamo appena passato sembrava la notte di novembre. Le previsioni del tempo davano neve in Abruzzo, temperature assurde per questa settimana. Beh, questa mattina mi viene da raccontare e da chiedervi di raccontare quello che per voi significa la variazione del tempo. Quanto queste improvvise variazioni climatiche, questa imprevedibile mutazione del nostro tempo influisce sul vostro onore. Come vi sentite questa mattina, che le strade sono piene di pioggia, che fa un freddo boia, che gli abiti più pesanti già sono stati messi negli armadi, mandati alle tintorie? Quanto vi sentite nervosi o quanto vi sentivate bene l'altra sera? 800240024, visto che le previsioni del tempo è una delle attività radiotelevisive più seguite, visto che sui giornali tutti guardano subito la pagina delle previsioni, visto che ognuno di voi ha il parente, l'amico, lo zio, la persona che conosce, che sa tutto sulle previsioni del tempo di ogni città d'Italia. Sentite, la mia voce già si sta rompendo, perché sono stato duramente provato da quello che è la mutazione climatica. E a me la voce, che è lo strumento di sostentamento e di espressione più forte, più potente che io abbia, anzi probabilmente l'unico, sapere che il tempo influisce sulla mia voce è un motivo di grande e profonda iattura. Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con il meteo. Vorrei dirvi che arriva un po' di aria fresca e che questo caldo ci dà un attimo di tregua, ma in realtà vi dico di portare pazienza, almeno fino a sabato. Cosa succederà nelle prossime ore? Beh, l'anticiclone subtropicale muoverà verso l'Europa centrale, tentando di conquistare anche la nostra penisola. In queste ore di venerdì il freddo ci ha concesso una tregua al centro-sud, l'aria calda ha già fatto aumentare le temperature, tant'è che al meridione fa quasi caldo. In alcune città si sono sfiorati, pensate, i 20 gradi. Sarà comunque un pomeriggio piovoso al nord, qualche nuvola. È interessante che poi il racconto delle condizioni climatiche è un vero e proprio format che negli anni è andato specificandosi, è andato creando comunque una sua struttura. Le previsioni del tempo oggi vengono fatte con meravigliose signorine, con affascinanti ragazzi. Ci sono degli strumenti elettronici che permettono di vedere l'immersione fisica del protagonista del racconto con la mappa del mondo, con le mutazioni, le nuvole che arrivano, le tempeste che scendono, il sole. E poi vogliamo mettere quanto esistono delle stagionali ricorrenze, le piogge improvvise, le alluvioni, il maltempo imperante, la neve, il ghiaccio, il gelo. Poi cominceremo a parlare di caldo, poi daremo i consigli per il caldo, poi parleremo degli anziani che si sentono male, poi ci saranno le persone che diranno: mi raccomando, bevete molta acqua, vestitevi con abiti leggeri, copritevi il capo nelle ore di sole e nelle ore di punta è bene che bambini e anziani non escano, e cose del genere. 800240024. Quanto tutto questo influisce nella vostra felicità o nel tenore quotidiano della vostra esistenza? Pronto, parlo col servizio percorribilità strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 76 55 barra UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma? Ma caghe. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a voi. La sento un po' in ansia, cosa succede? No, per niente, solo che ho la voce un po' che è calata ieri perché faceva un po' più freddo. La stessa oggi, cosa che è accaduta a me, e io poi ci devo anche guadagnarmici il pane con la voce, quindi si figuri quanto sono allegro. Beh, però però un po' tutti, dai, alla fine pure se lavori e fai la commessa, se stai senza voce è più difficile. Ecco, il cambiamento improvviso di tempo che c'è stato ieri, ancora non ne hanno parlato i giornali, ci sono notizie più importanti, le elezioni, il famoso personaggio francese preso con il sorcio in bocca e via dicendo, ma quando si comincerà a parlare del tempo cambia improvvisamente, noi improvvisamente diventiamo nervosi, irosi o come tanto eravamo rilassati e disponibili poche sere fa, ecco, in lei personalmente la mutazione climatica cosa ha determinato? Vediamo se possiamo usarla come cavia. Ma forse mi ispiro un po' agli anglosassoni, il cambiamento del tempo è un collante, aiuta ad aggregarsi, si parla e poi infine... Ecco, ci dà un'occasione di socializzare, di rucche tempo. Sì, bello, infatti, mi piace, poi vabbè cambia però io... Come accennavo prima, è bello anche sentirsi che uno non controlla tutto, cioè che ci sono delle cose che alla fine ti devi un po' anche felicemente rassegnare e dire oh, è cambiato il tempo. Ecco, questa è una cosa molto interessante, una fattispecie che noi non possiamo controllare. È una delle poche occasioni di imprevedibilità da affrontare durante la giornata. Oggi nessuno immaginava che uscendo con la giacchettina che ci eravamo messi sabato sera, di cui eravamo felici, un sottile e lieve baluardo alla brezza calda della sera, questa mattina non serve a fermarci dal gelo. Quindi questa vita che cambia improvvisamente ci dà il senso che grazie a Dio non controlliamo tutto. Sentiamo ancora Angelo. Pronto? Angelo, a lei cosa fa? Il cambiamento del tempo la blocca a livello muscolare? Esatto, a me proprio c'è, cioè, diciamo, il cambiamento dal caldo al freddo, perché a me direttamente il freddo in inverno, anche meno 10, meno 20, proprio non mi fanno niente, non c'ho problemi, cioè se ho il tempo di ambientarmi. Dal caldo al freddo, come i temporali estivi, questi cambiamenti come adesso, proprio mi blocca a livello muscolare, divento come un lemore, hai presente il lemore? Sì. Ecco, io divento così, proprio mi rallento, mi blocco. Sì, ma... Non è un problema fisiologico, noi stiamo parlando di cambiamenti di umore, di qualcosa che parte la nostra interiorità. L'umore, diciamo, no. Ma se no la passo direttamente a Nicoletta fisico. Carbone, se le serve un fisiatra o no. No, non è quello, no, io ho un tipo di muscolatura che è questa, io mi conosco, è da sempre che è così. Come umore, diciamo, no, è relativo, non mi crea problemi più di tanto. Sono sempre euforico, diciamo io. Okay. Vabbè, lei è euforico, ci fa piacere. Sì, 800 24 00 24. Entriamo più nel rapporto personale che abbiamo con i nostri simili. Quanto i rapporti sociali mutano a seconda del tempo. Come vedete sott'occhio diverso le persone quando le vedete anche secondo una luce diversa. Quali sono i momenti fatali in cui le condizioni climatiche potrebbero rovinarvi la giornata o potrebbero, al contrario, crearvi i presupposti per una giornata favolosa. Oggi sono rimasti in pochi a conoscere il segreto della cipolla barometro. La parte che è cresciuta a sud da sole è più sviluppata e Alfio la posiziona rigorosamente verso la mia sinistra, perché questa parte poi mi dovrà dare tutti i mesi dispari. La sera del 24 gennaio vengono tagliate delle cipolle in 12 gusci, ogni guscio corrisponde a un mese dell'anno. Dalla parte sinistra prenderemo tutti i mesi dispari, dalla parte destra i mesi pari. La previsione del tempo con le cipolle, ma esistono migliaia di metodi empirici, dal callo che fa male all'osservazione del cielo, l'osservazione delle piante, degli animali. Dice il mio micio sente il tempo, il mio cane quanto sente il temporale che sta arrivando, quanto mi sento nervoso e strano, sta cambiando il tempo. Giuseppe Neri, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, Giuseppe Neri adesso ci darà una concreta, se possibile, corrispondenza di quanto sia vero, al di là della superstizione che il tempo influisce sul nostro umore. Ricordo che Giuseppe Neri è un neuropsichiatra, nostro amico e nostro importante supporto per tutto ciò che riguarda la nostra interiorità, la nostra psiche, ciò che noi non controlliamo, che non conosciamo. È vicepresidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Allora, Beppe Neri, ho voluto far ascoltare una prima sventagliata di umore. La cosa che mi ha più colpito è il signore che dice, viva Dio, qualcosa che non dobbiamo controllare. Beh, penso che abbia colto proprio uno degli aspetti nodali. Noi viviamo in un contesto in cui da tutte le parti, in varie circostanze, voi che siete i media, ci mandate spesso un messaggio rassicurante. Quale che sia il contesto, la situazione, il problema, è tutto sotto controllo. e noi abbiamo dentro di noi un potente bisogno di controllare noi stessi e di controllare il mondo che ci circonda. Ed alcune variabili fondamentali, come farà caldo o farà freddo, pioverà, ci sarà vento, influenzano in termini determinanti il nostro comportamento, sia perché come specie animale Homo sapiens noi funzioniamo a certe temperature, al di sopra e al di sotto di temperature, di certe temperature è patrimonio comune la conoscenza del fatto che noi siamo in gravi difficoltà o smettiamo di funzionare fino a rischiare. C'è da dire che ormai siamo in grado di condizionare il nostro ambiente e il nostro, diciamo, habitat climatico in maniera estrema, quindi non dovrebbe condizionarci poi tanto. Non moriamo di freddo né moriamo di caldo, questo è il problema, eppure ancora siamo condizionati. C'è sempre questo gioco fra la risposta individuale e l'ambiente circostante. Noi siamo degli animali che abbiamo una termoregolazione che obbedisce attraverso l'ipotalamo a certi principi validi in tutte le circostanze, ma che è molto personalizzata. Tutti conosciamo, per essere chiari e anche un po' banali, persone freddolose e persone che io chiamo distermoregolate, capaci di sopportare freddi estremi o di uscire tranquillamente in maniche di camicia con 5 gradi sotto zero. Il problema è che sempre siamo nel campo di ciò che è e ciò che noi percepiamo. La realtà è l'immagine che ne costruiamo, la nostra capacità di adattarci e di continuare a operare in un contesto, tra virgolette, avverso, ostile, caldo, umido, o la nostra dipendenza da un setting che sia il più schematico, rigido, controllato e controllabile, definito con minime oscillazioni. Io ho amato quella citazione di Verdone, che secondo me, a parte il caso clinico che rappresenta, ma esemplifica proprio un tratto ossessivo da manuale. Come si chiama la patologia? Questo è un disturbo ossessivo compulsivo, però che lui, che è una persona di una, bastava sentire ieri sera quello che diceva una trasmissione televisiva, ha vissuto e ha studiato dentro di sé e negli altri, un profondissimo conoscitore, e proprio per questo secondo me lo rappresenta con tanta fedeltà alla realtà. Ecco, quindi abbiamo capito che noi, pur avendo tutte le garanzie che non avremo grossi problemi fisici per la mutazione del tempo, siamo ossessionati da qualcuno che ci possa dare la certezza, prevedere quello che sarà il tempo. Perché? Perché sappiamo di essere così soggetti alle mutazioni temporali. 800240024. Vi do qualche piccolissima assaggio di ciò che mi stanno scrivendo su Facebook. Per me è un punto di riferimento vedere che, ad esempio, nel social network questo argomento è un argomento che immediatamente suscita reazione. Dora mi dice: non molto sono condizionata dal tempo, ma quando piove mi sento meno in colpa nel restare a casa a far nulla. Questo ha un effetto disastroso sulle mie attività. Poi Margherita: tantissimo condizionata, non va più avanti con l'età, più va avanti con l'età e peggio è. La cosa strana è che mi mette più di cattivo umore una giornata di sole se chiusa in casa a lavorare che la pioggia. Ecco, molto legato il cambiamento del tempo alla necessità comunque di avere di onorare la propria professione. Allora Francesco: l'importante è che se piova io devo rimanere in casa, se c'è il sole debba avere qualcosa da fare fuori, se avviene il contrario potrebbe esserci dei problemi. Ecco Giuseppe Neri, c'è questo forte condizionamento: quando è bel tempo dovrebbe essere il tempo del diletto, quindi rode moltissimo dover lavorare. Quando è cattivo tempo dice: ma tanto piove, quindi sto a lavorare, è giusto che sia così. È un po' diverso rispetto alla concezione primaria che dovremmo avere di queste condizioni. Il bel tempo è il tempo dell'operatività, invece. Ma noi il contadino quando piove sta a casa, non deve far nulla. È vero, ma sono passati molti milioni di anni da quando siamo comparsi sulla faccia della Terra, e all'origine, quando eravamo molto meno complicati nella nostra vita di relazione e avevamo probabilmente grotte o capanne, tutte queste cose influenzavano in maniera determinante la nostra quotidianità. Oggi il setting è completamente cambiato e anche la nostra capacità di adattamento, ma non solo è cambiata, ma si è modificata in termini peggiorativi. Siamo sempre meno liberi e più schematizzati, siamo sempre più collegati al tentativo disperato e che tende a fallire di adattare le nostre aspirazioni ai limiti concreti che la realtà ci impone, per cui vorremmo fuggire dalla nostra quotidianità e abbiamo un ottimo alibi dicendo che fuori è una bella giornata. Tendiamo a ripiegarci nel nostro mondo interno perché la situazione ci rende più vulnerabili, e allora ci fa piacere che fuori piova perché abbiamo un'ottima giustificazione al nostro non volerci aprire e a giocarci le nostre esperienze nelle relazioni col mondo esterno. Ieri una domenica, la domenica, io penso sempre che occorra fare qualcosa di particolare. In realtà non si fa nulla perché uno è talmente stanco dalla settimana. Verso sera dico, ad oggi è passata un'altra quelle domeniche schifose, sono stato a casa, mi sono alzato tardi, tutto il giorno davanti al computer, mi sono sentito dire, ma tanto era una brutta giornata, dove andavamo? Ecco, noi quindi ci siamo creati una sovrastruttura compensativa che non risponde più alla naturale dipendenza dello stato del tempo, allo stato del clima e via dicendo. Ci siamo inventato proprio questa cosa. Ma tu hai descritto un setting particolare di una modalità relazionale sintonica in cui l'interlocutrice ti conferma i tuoi convincimenti e ti potenzia le tue sicurezze. Che ne sa che l'interlocutrice? Se fosse meno sintonica la situazione, potresti essere oggetto di rimproveri in merito al fatto che tu hai perso anche l'ultima occasione per uscire in quella domenica. Questo riguarda molto il gioco di relazioni che noi intessiamo nella nostra vita quotidiana. Questo conferma ancora più che è artificiale, completamente artificiale, questo nostro interesse alle variazioni climatiche. Le variazioni climatiche, secondo me, Beppe Neri poi può confermarlo o smentirlo, non influiscono più nel nostro umore, non esiste più questa sorta di scaramantica e quasi magica dipendenza dal tempo, ma il tempo ci siamo creati perché è una struttura che dobbiamo comunque dominare e ci giustifica alcuni nostri comportamenti. Floriana, finalmente una donna che secondo una vulgata detestabile sono quelle più soggette al cambiamento del tempo. Floriana. Buongiorno. Eccola. E innanzitutto volevo dire che io non seguo mai le previsioni del tempo, cioè le trasmissioni sulle previsioni, perché quando mi alzo la mattina vedo che tempo fa e mi regolo, cioè non mi frega niente, scusi il termine, di vedere in anticipo cosa succederà il giorno dopo. Il giorno dopo se c'è sole mi mette allegria, se c'è cattivo tempo pazienza, mi copro e continuo a fare le mie cose. E quali sono le sue cose? Esco, vado a fare le mie commissioni. Beh, oggi sa, io infatti quello che dico è, a meno che uno non abiti in una campagna fangosa o in una foresta perigliosa, le città bene o male quando piove si fanno le stesse cose che si fa quando c'è il sole, non è che cambia molto la nostra vita. Io voglio dire una cosa, che comunque non è una superstizione il fatto che il tempo incida, il grigiore mette un pochino di malinconia, di malumore. Ma a me il grigiore attizza tantissimo, però questo ognuno ha il suo punto di vista. Le giornate uggiose sono le migliori per dedicarsi ai piaceri carnali, secondo me. Le giornate assolate sono belle per starsene a dormicchiare, a sonnecchiare con il ventilatore acceso. Ognuno poi la vede personalmente. Questo è vero, quando c'è il tempo brutto, per chi ha la possibilità può rimanere in casa a godersi. A godersi? Insomma, non voglio essere esplicita. Vabbè, nessuno l'arresterebbe. Comunque va bene, abbiamo capito il concetto. Si può fare l'amore al... Beh, lo dica, guarda che mica ancora non arrestano nessuno, sa, per fare questa cosa qua o per dirla. No, voglio dire, si può fare l'amore, si può rimanere a crogiolarsi nel letto mentre fuori piove. Esattamente, vedi, quello che sto cercando di far capire io. Giuseppe Neri, in questo mio intrigante sfrucugliare questa signora, siamo riusciti ad aggiungere un tassello a quello che già stavamo dicendo? Penso di sì, perché è verissimo che noi poi ci costruiamo i nostri modelli, nel senso che tu puoi trovare l'interlocutore che trova estremamente, come dicevi tu, attizzante l'idea dell'isola greca di luglio e fra i cespugli avere la possibilità di interagire con un esemplare dell'altro sesso in un contesto assolutamente assolato e caldo. Certo. E ci sono quelli che invece nulla di meglio che il caminetto nella casa in montagna, nei monti Appalachi, negli Stati Uniti, mentre fuori fischia la bufera. Il problema è che però non bisogna, secondo me, dire non c'è nessuna relazione, cioè ci sono degli studi abbastanza anche robusti che evidenziano come l'esposizione al sole, le ore luce di una giornata, che sono anche funzione della latitudine e di quindi dove le persone vivono, hanno un certo ruolo. Se tu vai a guardare le statistiche, che sono ben aggregate e coerenti in questo, c'è un certo, viene chiamato gradiente latitudinale della depressione. Cioè, negli stati depressivi è chiaro. No, intendo dire che a Malta o in provincia di Ragusa, mediamente, il tasso di depressi e di suicidi è un pochino inferiore che non in Lettonia o in Scandinavia. E questo comunque correla dal punto di vista degli eventi misurabili con elementi climatici, esposizioni e ore luce che sono totalmente diverse. Grazie Giuseppe Neri. 800240024, continuiamo a parlare di quanto incida il tempo, il clima, il punto luce nel nostro umore tra un istante dopo le informazioni della borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Considerazioni di un meteorpatico. L'inverno stanno non vuole finire più, sempre qualche malanno e tant'acqua che via giù. E il freddo mi impigrisce, la mente è ristagnante, l'energia si affievolisce e l'umore è altalenante. A primavera mi risveglio, sarà l'odore di mimosa profumata, mo mi comincio a sentir meglio e il sole mi riscalda la pelata. D'estate sto in carburazione, sono pieno di risorse. Questo è un poeta meteoropatico, ha lasciato su YouTube una sua canzone dedicata al mutare delle stagioni, quanto facciano mutare il suo umore. 800240024, stiamo definendo quanto ancora nel tempo che stiamo vivendo possa influire le mutazioni climatiche nel nostro umore, nel nostro comportamento. Lo facciamo assieme a Giuseppe Neri, neuropsichiatra e vicepresidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Allora Beppe, se vogliamo riassumere un attimo quello che abbiamo detto in prima parte, l'uomo è sempre stato condizionato dal muoversi delle stelle, dal muoversi delle stagioni, dalla scansione quotidiana, dalla pioggia, dal vento, le bufere erano sempre segni comunque di un'ira o di una accondiscendenza degli dèi rispetto al suo comportamento. Oggi che tutto questo lo abbiamo lasciato un pochino nel nostro ricordo, ne siamo ugualmente condizionati e la nostra liturgia quotidiana è l'osservazione delle previsioni del tempo in televisione, alla radio, sui giornali, argomento di socializzazione, argomento nel sentirsi affratellati comunque da una iattura o da una bellezza. Io per rompere il ghiaccio con i tassisti parlo sempre del tempo, perché odio il silenzio plumbeo che è dentro quell'abitacolo. Altri faranno la stessa cosa. Beppe. È verissimo questo fatto, ed è anche vero che proprio questo alternarsi delle stagioni, ma anche nell'arco della giornata, il giorno e la notte, sono strettamente correlati a dei ritmi biologici che sono fondamentali per il nostro benessere psichico. Per esempio, non soltanto la quantità, ma la qualità del nostro sonno notturno, cioè delle ore che dedichiamo al sonno, è fondamentale per il nostro equilibrio. Cioè sembrerebbe che uno debba soltanto ricaricare le batterie o avere quelle X ore di riposo notturno. Non è soltanto questo. Sonno è un fenomeno attivo durante il quale il nostro cervello funziona molto alacremente, è l'esempio classico, la fase REM in cui sogniamo, ma risistema, riorganizza, riformatta tutta una serie di dati che ci consentono, se sono stati ben riaccordati, risistemati, risincronizzati, di affrontare la giornata il giorno dopo. Io racconto sempre, perché è un dato che si è realizzato in vari contesti storici, la modalità di tortura che veniva fatta nei confronti delle persone che non si voleva colpire fisicamente, cosa che è avvenuta nell'Argentina dei generali o in altri contesti, in cui facevano la deprivazione di sonno selettiva, li facevano dormire soltanto alcune ore all'inizio della notte, poi li svegliavano in certe fasi, li facevano riaddormentare e li deprivavano, gli levavano le parti più ricche e più dense del loro sonno. Ora questo può avvenire anche per fattori meteorologici, per l'avvicendarsi delle stagioni, per un autunno che tarda a trasformarsi in inverno o per un'estate che era promessa come fino all'altro giorno e poi improvvisamente ci porta indietro. E la sensibilità individuale, la vulnerabilità dei singoli è quella che poi chiamiamo meteoropatia. Quindi noi abbiamo bisogno di un'alternanza comunque, di questo elemento sorpresa. Considererei una iattura terrificante vivere in quei paradisi che molte volte vediamo soltanto nei film o sentiamo raccontare, qui è sempre bel tempo, è sempre un idillio. Idem sarei terrificato di vivere in quei luoghi in cui inverno 6 mesi all'anno c'è il buio. Quindi abbiamo bisogno, è la nostra salvezza questa alternanza. È la nostra salvezza perché noi siamo pianificati, abbiamo un codice genetico che prevede proprio sia una capacità di adattamento, sia nell'ambito della caturazione e della crescita, la esposizione a fattori ambientali esterni, le ore di luce, l'esposizione al caldo, al sole, rispetto alla notte, al buio, che coincidono di solito con il sonno, che settano, organizzano le reti dei nostri neuroni e ci consentono anche di costruire poi le relazioni col mondo esterno. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno. Vediamo un po', umore differente da regione a regione, in base a chi? Sì, Io penso che ci sia una relazione importante non solo tra nord-sud, ma anche e soprattutto tra le regioni che hanno montagne oppure al mare. Ma lei l'ha provato sulla sua pelle questo? Sì, io sono un leccese trapiantato nel Friuli, dove peraltro cambia... Cioè da Lecce a Udine lei prova dei cambiamenti umorali notevoli? Assoluti, cioè veramente cambiamenti... che in passato non pensavo potessero esistere, invece con l'esperienza umana mi sono reso conto che proprio il carattere della persona, della gente, è condizionata non solo per il discorso ambientale, cioè per esempio per il mangiare, ma anche e soprattutto per il clima. E poi anche e soprattutto se rovesciamo questa equazione, giustifichiamo chi dice il meridione non fanno niente, stanno tutti i giorni al sole e non hanno voglia di lavorare, noi invece che stiamo al nord, che siamo belli, robusti, siamo abituati a lavorare. È un rapporto secondo me che dà adito a un'infinità di pregiudizi. Però sì, quello che mi interessa sentire da lei, siccome oramai le case più o meno si assomigliano tutte, hanno tutte bei termosifoni, bei condizionatori, belle persiane, belli infissi ermetici, non è che cambia la nostra percezione fisica della mutazione temporale, cambia proprio quella cosa ineffabile, quella cosa impalpabile, data da un'equazione molto complessa che è fatta di clima, è fatta di profumo, è fatta di punto luce, è fatta di brezza che ci attraversa, di sole che ci lambisce, via dicendo. No, purtroppo abbiamo un condizionamento dettato dalla tecnologia dell'aria condizionata, per esempio. Beh, è la mia passione più grande, guardi, sì, non saprei farne a meno. Ecco, io sono legato ai climi di stagione, abbiamo visto anche che cambiano moltissimo, quest'anno qui in Friuli ha fatto un caldo da 30 gradi ad aprile, quindi voglio dire l'adattamento dell'uomo è condizionato anche e soprattutto dalla predisposizione genetica che ha. Io sono un meridionale, è chiaro che se arrivano giornate di 30 gradi sono più disponibile a vivere piuttosto che magari il contrario, questo è chiaro. È naturale fare una riflessione e capire, ovviamente accertando che l'uomo è fatto ovviamente e si aspetta che ci siano dei cambiamenti climatici, farsi una domanda e dire: ma se i climi cambiano, può cambiare la vita, ma può essere un sentore d'allarme. Sentiamo Tamara. Sì, ciao, grazie. Intanto ti volevo ringraziare per l'attenzione che hai sempre per le donne, siccome ho detto prima che chiamano poche donne. Sei data da fare, giustamente. Ma anche quello, ma insomma è un piacere intervenire quando, visto che ascolto sempre il tuo programma. Però vai sull'argomento, se no ti seguo. Sì, sull'argomento è effettivamente il... diciamo le previsioni del tempo ti danno sicurezza, questo mi ho letto. Ecco, mi danno sicurezza il fatto, a me piace ascoltarle invece al contrario di quell'altra signora. Ma da quale latitudine parli? Da dove sei? Da dove chiami? Io sono di Roma, però lavoro a Cervetri, quindi ti posso dire che mentre a Roma sono uno spazio molto chiuso e quindi non avverto le variazioni, qui che diciamo è molto un altro, per quanto sia molto vicino a Roma ci sono, qui adesso Cervetri ci sono influenze etrusche con tutto quel tufo che ma insomma, la natura si sente di più sicuramente, insomma. E quindi cosa ti succede quando stai a Cervetri? A me piace sia, come dicevi tu, il fatto del caminetto, del freddo, come ovviamente dà anche una grande forza, una grande carica al sole, come diceva l'esperto, insomma. E quindi avvertire queste situazioni, queste sensazioni è bellissime, sono una delle poche cose che, come dicevate anche non so tu prima, ci riavvicina un po' alla nostra natura, alla nostra qual è il clima per te più favorevole, quando ti senti veramente appagata, pronta, disponibile? Io penso che dipende sempre io sono più solare essendo di agosto, ma insomma in ogni caso penso che sia le persone, la sicurezza, ci sono le persone vicino, cioè non è il tempo, è tutto bello, la natura è tutta bella. Dipende da chi c'è vicino, questo esatto. mi sembra un'ottima deduzione. Dario, ecco, hai un amico che lavora nel campo meteorologico. Partendo da una premessa che io non ritengo affatto di essere meteoropatico, almeno per quanto riguarda la parte psicologica, per quella fisica sì, nel senso che io amo molto il fresco, l'ombra, il sole mi è forte, mi dà un po' fastidio, ma è una questione fisica. Sono il classico che ragiona, avevo i capelli un po' rossicci, la pelle bianca, mi scottavo facilmente. Adesso ho una certa età, diciamo 75 anni, e ho molto spesso dolori muscolari, articolari. Sì. E il medico mi dice è il tempo, io gli ho dato ragione, ecco, però è il tempo che è passato, è certo, il tempo cronologico, invece per me è il tempo cronologico quello che porta a queste cose. No, ma avevo citato bene già questa battuta del medico, mi dice sì è il tempo, quindi se anche lui ha ragione, è il tempo del calendario. Però vede Dario, Beppe Neri, ecco, che è un grande argomento. L'altro è il signore che conosco, che lavorava nel centro meteorologico, che mi disse che la sua scelta di professione è stata, lui avrebbe voluto fare o l'economista o il meteorologo, perché sono professioni che consentono sempre di smentire quanto si è detto. Beh, questa è una battuta, è chiaro, ma è chiaro, qualsiasi la smentita può essere fatta in qualsiasi campo dello scibile umano, sia nell'economia come appunto nella meteorologia, questo è chiaro. Mi fermo soltanto un istante per dare la linea alle previsioni del traffico, poi con Beppe Neri vedremo di tirare delle somme riguardo a quello che avete detto e quello che noi già intuivamo sull'influenza del tempo nel nostro comportamento. De vue se reperdre, de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Siamo a giugno eppure fa così freddo. Sbalzi di tempo e sbalzi di umore. Quando c'è il sole penso a... e la pioggia mi fa pensare a... è ancora peggio, il buio della pioggia. Beh, però almeno c'è da dire che quando è bel tempo, ma il cattivo tempo però è proprio maledettissimo! Qua un altro signore che su YouTube associa alcuni stati meteorologici a delle musiche, questa ultima, quella che abbiamo fatto sentire, le altre sentivano un po' meno peggio, dimostra con quanta veemenza e con quanta passione dimostri la dipendenza dal tempo, che poi abbiamo visto è molto relativa. Io trovo, lo chiedo a Giuseppe Neri, ricordo neuropsichiatra e vicepresidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri, che in fondo la cosa che più mi risulta evidente è che di tempo si può parlare con chiunque, qualunque cosa può essere detta, è il primario argomento di socializzazione per attaccare discorso, per riempire i vuoti, per colmare anche le afasie familiari. Parliamo del tempo, in fondo ci dà una grande occasione. Beh, per esempio i francesi hanno un termine molto tipico per designare il fatto che questo è un modo per non scoprirsi, non affrontare nessun argomento specifico e non impegnarsi, cioè on parle de la pluie et du beau temps, parliamo della pioggia e del bel tempo, non parliamo di niente, stiamo sul generico, non entriamo nel merito. D'altra parte è una specie di lingua franca che ci consente di interagire senza toccare tasti che possano essere delicati. Volevo però, rispetto a quello che diceva uno dei nostri ascoltatori, fare una piccola precisazione. Ci sono in realtà alcune condizioni in cui gli elementi di cui disponiamo per giustificare un'ipotesi, se non di causa-effetto, di correlazione stretta fra variazioni meteorologiche e riacutizzazione o scatenamento di alcune condizioni, sono vere. Tipico, per esempio, è per i pazienti che soffrono di emicrania il fatto che ti racconteranno che quando ci sono variazioni barometriche importanti e repentine, queste di solito coincidono con una maggiore frequenza di ripetizione delle crisi. E anche prima il nostro ascoltatore che diceva, certo, rispetto al Salento, nella bellissimo Friuli, che ha tante bellezze paesaggistiche, o meno esposizione al sole o più freddo. Però, per esempio, se un paziente ancora una volta è emicranico, cercherà di stare al buio, perché la esposizione al sole, la luce diretta, gli dà molto fastidio, si chiama fotofobia. Quindi teniamo conto che non sono soltanto e tutte delle credenze popolari o delle leggende metropolitane. Esistono degli elementi documentati, circoscritti e definiti, non così estesi, che però pongono in relazione i due fenomeni. Beh, ti farò una domanda, Beppe, che può sembrare ammantata di malizia. Noi oggi abbiamo una grande consuetudine nel vedere persone che vengono da paesi molto lontani, io penso agli africani, ma vedo che vivono tranquillamente, almeno apparentemente non mi sembra che siano così condizionati da un cambiamento così radicale. Se noi andiamo in Africa dopo una settimana di viaggio o di soggiorno in un bellissimo club iper attrezzato, comunque ci lamentiamo, torniamo che abbiamo dei problemi. noi occidentali civilizzati, con tutte le accezioni possibili di questo termine, abbiamo un po' perso la capacità di adattarci ai cambiamenti climatici. Io penso che questo sia molto vero e faccio un riferimento a quando ero bambino. Pensa ai cinesi, gli asiatici che stanno da noi e vivono tranquillamente. Esatto. Secondo me è un discorso di analisi motivazionale. Io ricordo quando ero bambino sentivo i racconti dei calabresi che erano andati a lavorare a Wolfsburg, che è dove c'è la Volkswagen in Germania, e questi venivano da un clima caldissimo dell'estremo sud della penisola e si erano adattati, ma si erano adattati perché avevano un bisogno disperato di avere una sicurezza, un lavoro, un reddito e anche di mandare qualcosa a casa. Anche i nostri africani che si adattano hanno bisogno di mandare qualcosa a casa, quindi bisogna scavare nelle motivazioni profonde che sono capaci di scompaginare completamente e cambiare i nostri comportamenti. Quindi siamo un po' viziati, possiamo anche lamentarci che ci viene il mal di testa quando cambia il tempo. Consuelo, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Io volevo dire solo una cosa, in genere mi spaccio per una strega buona perché dico di riuscire a fare le previsioni del tempo nel breve periodo, in realtà sono solo meteoropatica. Perché e quali sono i suoi indicatori fisici del tempo che cambia? Un quarto d'ora, dai 5 minuti a un quarto d'ora prima di un temporale o di una pioggia, ma viene un capogiro. Io in genere mi capita di essere dentro al ristorante e dico ragazzi sta per piovere, 4 volte su 5 è vero. Conviene invitarla a cena in prossimità di un temporale per abusare di lei, quindi? Sì. Quindi mi spaccio per una strega buona, in realtà sono solo meteoropatica. Poi altri segnali? No, il capogiro. Il capogiro, lei va in deliquio, sviene. In qualche giornata, però è pazzesco come un capogiro mi sia proprio segnale premonitore di un temporale. Ma non ha mai pensato di rivolgersi a qualcuno che le dia una risposta un po' meno superstiziosa e metafisica rispetto a questo suo capogiro? No, perché ho l'impressione che sia... Che è giusto, è come una pitonessa che fa le sue previsioni e cade in catalessa. Ma è da un esorcista. Ah, è stata l'esorcista. No. Il suggerimento era verso un medico o verso un esorcista, perché sinceramente la cosa non è che mi preoccupa o spaventa più di tanto, ma mi sono resa conto in 10 anni di esperienza che è presumibile che insomma la causa stia in una sorta di meteoropatismo. Dopo esperta non sono in materia, ma insomma mi pare di capire che possa essere questo. Giuseppe Neri. Beh, la cosa più bella, e faccio i complimenti alla signora, è la serenità con cui descrive questa cosa, che secondo me non la turba per niente e continui così. Ma io penso sia piacevole, se non lasciarsi andare. Ma c'è una spiegazione, la signora dei barocettori, noi abbiamo dei recettori specifici per anche le alterazioni della pressione atmosferica, che sono settati probabilmente con una soglia bassa, cioè sono ipersensibili e quindi sono capaci di percepire con maggiore accuratezza, con maggiore rapidità e in anticipo rispetto alla media degli altri soggetti, queste variazioni. Siccome mi sembra che lei conviva benissimo con questa cosa, anzi ci sorride sopra, secondo me io sono anche per evitare l'esposizione eccessiva dei pazienti al contatto col medico quando non ci sono motivi fondati. Paolo, buongiorno. Tocca a me? Certo, sì. Ah, salve, no, aspettavo da un po', avevo perso le speranze. Non si lamenti, sempre. Comunque l'importante è arrivarci, è esserci, diciamo, quindi però la mia considerazione che è abbastanza... forse esistenziale, filosofica, non lo so. Io vivo a Milano, lavoro 5 giorni su 7 come un po' tutti. E scusate se ho il fiatone ma sto camminando, quindi chiedo scusa se... Praticamente appunto per recarmi al lavoro, ma il lavoro non è certamente il mio fine ultimo. Il mio fine ultimo è quando c'è la domenica, c'è una bellissima giornata di sole, è poter andare in giro, esistere. Non è vita, secondo me, rimanere dentro casa con una bella giornata di sole. Non sono d'accordo con chi diceva si può essere felici con una bellissima giornata e fare qualcosa dentro casa, fare i propri mestieri tranquillamente. Non è così, la vita va colta in modo più, come posso dire, io dico carpe diem, no? Che sappiamo tutti cosa vuol dire. Cioè nel momento che esiste una bella giornata, noi siamo degli animali sociali, dobbiamo stare fuori. Ma oggi che è una bella giornata le tocca lavorare, come la mette? Oggi mi tocca lavorare, però il mio rimpianto non è oggi che devo andare a lavorare, perché sennò non si mangia. Ma il mio rimpianto è magari, essendo di Milano, una giornata come ieri, che fino a sabato era mezzo soleggiato e ieri era brutto tempo e quindi insomma ti fa un po' rabbia, ma sono uscito lo stesso. No, voglio solo dire un'ultima cosa, sì. Condivido in parte solo quello che ha detto il dottore, sì, c'è bisogno del riposo, ma io credo che proprio per dare un senso alla vita, molti a 60 anni si guardano indietro e magari hanno molti rimpianti, non è solo riposo la vita deve essere anche qualcosa va attiva. Ci ha dato questa fare. Scusa, la devo segare, l'ho fatta aspettare, ma è meglio che non la faccio parlare, perché ha un concetto, ne inanella un altro. Evidentemente il tempo le dà questa grande euforia di potersi esprimere in maniera così diretta e così prolissa. Grazie Giuseppe Neri, grazie a quanti ci hanno ascoltato, ci sentiamo domani e che il tempo ci porti fortuna. Partis d'un tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.